Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Se sono le 6:45, vi siete svegliati da poco, vi apprestate ad andare a lavorare o accompagnare i vostri figli a scuola, buongiorno. Se mi ascoltate in replica invece alle 20:45, beh, buon fine serata. Diamo subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it per segnalare i vostri casi, mi raccomando che non siano personali, e vi ricordo anche l'indirizzo del mio blog robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Potete dialogare se volete con me anche in questa maniera. Il blog si chiama Guardie o Ladri, come la trasmissione che conduco sempre su Radio 24 il sabato alle 19:30. Dicevamo di casi personali, sì, ma che rappresentino un'intera collettività, comunque molte persone. Ed è proprio questo il caso che oggi affronteremo grazie ad una bella, cortese e oserei dire pulita lettera mandataci da un nostro radioascoltatore romano, Federico Tassini, che ho il piacere di avere con noi in linea. Buongiorno Tassini. Buongiorno dottor Galullo. Tassini sarà messo a confronto, e scopriremo presto il perché, con l'assessore al personale e ai servizi tecnologici e le reti informatiche del Comune di Roma, Enrico Cavallari. Buongiorno Cavallari. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il nostro è un mondo in continua evoluzione. I ragazzi oramai usano le tecnologie, Facebook, internet, le mail e chi più ne ha più ne metta, con una facilità disarmante, molto più di noi genitori, ma il mondo a volte sembra fermarsi per le amministrazioni comunali, non viaggiare con la stessa velocità con la quale invece viaggiano, io lo dico sempre, i nostri ragazzi. Allora, Tassini, che cosa le è successo? Vuole raccontarlo lei ai nostri radioascoltatori? Sì, Galullo, guardi, brevemente, diciamo, io nel 2004 ho usufruito di un servizio innovativo che forniva il Comune di Roma tramite il proprio portale, che praticamente consente di fare il cambio di abitazione tramite il portale del Comune di Roma, ovviamente previa identificazione e registrazione dell'utente. Cosa analoga aveva fatto poi mia moglie l'anno successivo per trasferire la propria residenza presso l'abitazione di mia proprietà. Ecco, quindi voi avete usufruito di questo servizio, avete voi pensato Roma, Comune di Roma, bene, bravo bis, ci dà uno spettacolare servizio telematico che ci consente, senza muoverci da casa, senza fare code chilometriche, di cambiare il nostro indirizzo, fare un cambio di residenza tranquillamente da un PC. È giusto, no? Esatto, perfetto. Benissimo. Infatti, assolutamente soddisfacente quando l'abbiamo utilizzato, veramente un ottimo servizio, insomma. Ecco, però ad un certo punto, recentemente, lei ci scrive, nel settembre di quest'anno, ho avuto bisogno nuovamente di questo tipo di servizio e purtroppo cosa ha scoperto? Ho scoperto, accedendo alla mia area privata nel sito del Comune di Roma, che il servizio era momentaneamente sospeso, che ci si scusava per i disagi, per l'interruzione del servizio e basta, diciamo, questo era il... Era la risposta che adesso mi ricordo a spanne. Certo, comunque voglio dire, il significato era questo. Poi lei è tornato a consultare telematicamente il sito oppure no? Guardi, io diciamo la prima interrogazione l'ho fatta a settembre e lì mi è apparsa questa schermata. Poi diciamo la più recente credo che risalga più o meno un mese fa, perché sì. Poi se mi ricordo bene, ecco, ho chiamato lo 060606 e poi... Ecco, ho chiamato voi, insomma. Ecco, giustamente, perché lei si domanda com'è possibile che venga abolito un servizio così interessante che permette ai lavoratori anche di farlo nel tempo libero senza dare giustificazione. Perché, mi corregga se sbaglio, allo 060606, che è il centralino del Comune di Roma, il call center le ha dato una risposta sulla quale io in un primo momento ho sorriso, perché mi sembra veramente anomala. Cioè, l'operatore del call center le ha detto che avrebbe saputo da un suo amico, amico dell'operatore del call center, che lavorava nel primo municipio, che il servizio non sarebbe stato più ripristinato. È così? Esatto, diciamo, questa è stata una delle informazioni che, diciamo, in via informale il call center mi ha dato, però diciamo loro come operatori ufficiali del comune mi hanno dato la risposta che anche loro sanno che il servizio era sospeso, ma che non sapevano nient'altro, cioè, ecco, che nessuno gli aveva detto per quale motivo, e era questa sospensione era più che altro un'interruzione o proprio un'abolizione del servizio. Quindi insomma, diciamo un piccolo giallo, un piccolissimo giallo su cui noi cercheremo di fare luce con l'assessore Enrico Cavallari, che devo dire ha pacificamente accettato l'invito, perché il tono, lo sentite, è davvero tranquillo. E giusto però sapere che cosa ha intenzione di fare il Comune di Roma. Allora Cavallari, come mai secondo lei è stato abolito o sospeso questo servizio? No, ma intanto vi ringrazio, io ho accettato volentieri, anche perché in effetti c'è, bisogna chiarire alcuni aspetti di questa vicenda giallo. Allora cominciamo col dire che intanto, ecco, questo era stato un servizio che era stato istituito nel 2005 per 3 mesi come sperimentazione ed era gestito direttamente dall'anagrafe centrale. E l'idea dell'epoca era quello di partire con l'anagrafico centrale con questo servizio e poi pian piano devolurlo ai municipi. Questo purtroppo non è mai successo fino all'ottobre 2008, anche se il servizio è rimasto in piedi comunque per 3 anni, e l'idea era quella appunto di trasferirlo ai municipi. Ora che cosa è successo? Che noi in realtà non è che siamo fermi come macchina, anzi noi abbiamo un portale che ha dei servizi molto efficienti, ma in realtà secondo la nostra opinione, noi siamo arrivati da 5 mesi, è un servizio poco chiaro, nel senso che col portale del Comune Roma si possono fare tantissime cose, oltre al cambio di domicilio si potrebbero fare anche certificati online, si potrebbero fare anche i cedolini dei dipendenti, quindi abbiamo un potenziale che va sviluppato, però il sistema di accesso non è molto chiaro, tant'è che il signor Tassini è, diciamo, molto, magari anche abbastanza esperto, si è registrato e ha fatto il suo cambio di residenza per la moglie. Sì. Però in realtà per la fascia della cittadinanza di Roma è un servizio poco chiaro, quindi noi stiamo sviluppando un sistema che dal 2009 vorremmo portare a gara per dare una chiarezza sul portale, quindi l'home page del portale deve essere più chiaro, soprattutto quando si danno servizi ai cittadini che ci permettono di fargli fare alcuni servizi da casa senza prendere la macchina. Ecco, comunque avere un sistema che comprende tutte le fasce della cittadinanza, sia chi vuole andare allo sportello perché è abituato così, sia chi non ha la volontà o la necessità di fare magari dei pagamenti, dei certificati tramite carta di credito, e chi invece da casa vuole farsi le sue operazioni. Quindi mi pare di capire che voi volete rendere ancora più fruibile il servizio, nel frattempo però questa parte del servizio l'avete sospesa per mandare lo stesso a gara nel 2009. No, ecco, dicevo, facevo una panoramica generale per dire che comunque questo è un servizio che noi vogliamo mantenere ma implementare. Che cosa è successo? Che nel mentre noi stiamo sviluppando i temi che saranno poi messi nel bando di gara per sviluppare questo servizio, è stato sospeso il servizio perché non c'è stato mai questo collegamento con i municipi. Intanto voglio dire, non è stato abolito perché in realtà c'è stata questa sospensione temporanea perché non c'è stato il collegamento con i municipi, e che noi riprenderemo. Quindi io intanto approfitto di questa trasmissione per dire che martedì 25 viene ripristinato il servizio. Ah, ecco, perché martedì 25 novembre, quindi il signor Tassini e con lui migliaia di romani potranno nuovamente riutilizzarlo. Esatto, anche bene. Se ritengo che sia difficile da interpretare da parte del cittadino. Comunque, visto che è un servizio che c'è e ha sviluppato dei servizi in questi anni, noi il 25 novembre lo ripristiniamo. Faremo tutto il possibile, anzi mi impegnerò io personalmente a coinvolgere i municipi, perché qui il problema qual è? Che la sperimentazione prevedeva un operatore dell'anagrafico che gestiva poi all'interno il meccanismo di controllo anche attraverso i vigili. Mentre questo deve essere fatto dai municipi, ogni municipio ha la sua numero di abitanti, deve essere fatto direttamente col corpo di polizia. Ho capito, Cavallari. No, è chiaro, io vorrei lasciarla con un'ultima domanda, perché il tempo a nostra disposizione sta per scadere. E quindi nel contempo saluto anche il nostro radioascoltatore Tassini. Ma non le sembra però corretto che quando si chiama al telefono il call center sappia prontamente dare una risposta? Perché qui si è rimasti per mesi senza una risposta ufficiale. Ecco, infatti volevo arrivare anche a questo. Poi c'è poi il caso dello 060606. Anche qui sembra paradossale, ma in realtà è stata fatta una gara d'appalto, c'è stato un nuovo vincitore per il servizio 060606, il quale praticamente ha dovuto fare la formazione, e questo è successo a maggio, quindi appena noi arrivati abbiamo trovato l'azienda vincitrice della gara d'appalto nuova, che ha sostituito quella vecchia, e che quindi ha dovuto fare la formazione ai 200 operatori che stanno allo 0606. Quindi è una questione di formazione. Quindi probabilmente, ecco, l'operatore, spero che insomma sia un caso isolato. Siamo isolato, però ecco, probabilmente prima di mettere al telefono una persona che deve dare delle informazioni sul Comune Roma dovrebbe avere una formazione assolutamente assolutamente l'esperienza di questi ragazzi possa servire qualche mese a rispondere correttamente e possa servire anche la nostra trasmissione per cercare di dare una mano alle pubbliche amministrazioni, oltre che a risolvere o quantomeno parlare dei problemi dei cittadini. Grazie a lei Cavallari, grazie a Tassini e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno, non prima di aver ringraziato in regia Giorgio Matè e in studio Laura Faggini.